va forse individuato nel fatto che oggi come oggi il costo del fotovoltaico è dovuto in misura minoritaria alla cella fotovoltaica vera e propria, e cioè alla parte che converte l'energia luminosa in energia elettrica, ma si deve soprattutto ai supporti su cui le celle sono montate, alla loro installazione e così via. Tra i più promettenti vetri fotovoltaici ci sono quelli sviluppati da Sergio Brovelli e Francesco Meinardi dell'Università Milano Bicocca. Parliamo di lastre di materiale plastico, come per esempio il plexiglass, in cui sono annegate delle particelle ultramicroscopiche che sono in grado di catturare la luce, quella che attraversa la lastra, di imprigionarla al suo interno e convogliarla sui bordi, dove ci sono delle celle fotovoltaiche, diciamo, tradizionali che la convertono, questa luce, in energia elettrica. Ci ha spiegato tutto Sergio Brovelli nel corso di una delle puntate di Smart City del 2016. Sentiamo. Dunque Brovelli, allora ci ricordi brevemente, per cominciare, come fanno queste nanoparticelle che avete progettato a trasformare una lastra di plastica trasparente in un concentratore di luce solare? Sì, dunque, queste particelle sono immerse in una matrice polimerica, in una plastica trasparente. Quello che succede è che la luce del sole incide sulla lastra, la penetra e viene assorbita in parte totalmente dalle nanoparticelle al suo interno. A questo punto le nanoparticelle riemettono l'energia che hanno assorbito del sole in forma di fotoluminescenza, e questa rimane intrappolata all'interno della plastica, dove viene riflessa dalle sue superfici, un po' come nelle fibre ottiche per telecomunicazioni. Cioè, una volta che è entrata la luce non riesce più a uscire perché rimbalza sulle interfacce tra la plastica e l'aria e resta confinata nella lastra, in pratica. Esattamente, la luce rimane confinata e quindi si concentra sempre di più verso i suoi bordi. A questo punto, lungo il perimetro, vengono accoppiate delle piccole celle solari che raccolgono questa luce intrappolata o guidata, in termini più tecnici, e la convertono in elettricità. Perfetto, quindi diciamo che il fenomeno è basato sulla fluorescenza, non so se è il termine esatto. Sì, esatto. Ok, d'accordo. Esattissimo. E tra i vari vantaggi è che questi sistemi a concentrazione sono fermi, tutti gli altri sono costretti a inseguire il sole nel cielo, quelli che fanno uso di lenti o di specchi, mentre questi no, questi stanno lì, ricevono anche la luce diffusa, insomma ci sono veramente tanti vantaggi, oltre al fatto che evidentemente possono essere integrati con le vetrate. Ecco, quali erano i problemi che affliggevano la prima versione di questi vetri fotovoltaici e che ora invece avete superato? Sì, dunque, questa idea è un'idea che va indietro nel tempo, verso gli anni 70, quando serviva abbassare il costo del materiale fotovoltaico. Perfetto, noi nel 2014 già superammo uno dei limiti più stringenti di questo tipo di tecnologia, che era quello di avere nanoparticelle in grado di emettere luce, ma allo stesso tempo non essere in grado di riassorbirla loro stesse, in modo tale che la luce emessa, intrappolata all'interno del vetro, potesse raggiungere effettivamente i bordi, no? Perché questa idea addirittura degli anni 60-70, ma non si riusciva a fare ste particelle che non si mangiavano la luce l'una con l'altra. Questo l'avete superato nel 2014. Esattamente, però le particelle che abbiamo usato per quello studio avevano tre limiti sostanziali. Il primo era composizionale, contenevano metalli pesanti, cadmio, piombo e sostanze potenzialmente tossiche. Questo andava risolto, e noi l'abbiamo sostituiti con dei nuovi sistemi a base di materiali non tossici, rame, selenio e zolfo. E uno. In secondo luogo c'era un problema di colorazione. È fondamentale per applicazioni in edilizia civile che le finestre non siano fortemente colorate, e quelle precedenti lo erano tipicamente rosse. Sia per una questione estetica, sia per il fatto che all'interno uno non vuole avere tutto rosso, vuole vedere i colori giusti, no? E questo era l'altro. Esatto, c'è un problema estetico esterno e un problema di daltonismo indotto all'interno delle case, esatto, perché la luce diventa colorata. Questa cosa l'abbiamo risolta. Ora questi nostri nuovi vetri hanno la colorazione molto simile alle lenti fume, diciamo, degli occhiali da sole, okay, richiamano degli occhiali da sole bruniti, e quindi queste si integrano in modo praticamente invisibile nel contesto urbano. E in terzo luogo erano inefficienti, un po' legato al fatto anche della loro colorazione, cioè assorbivano solo una piccola parte dello spettro solare, e questo faceva sì che la loro efficienza era limitata, fosse bassa. Ecco, e invece adesso anche questo è un problema, diciamo, risolto. Che efficienza avete raggiunto? E dunque, l'efficienza che abbiamo ottenuto è circa del 3%, che può sembrare bassa, ma stiamo attenti, perché l'80% della luce che incide sulla nostra finestra passa. Certo. Questi sono oggetti semitrasparenti, non come i pannelli a silicio da tetto, per intenderci. E per di più noi possiamo aumentarla, questa efficienza, decidendo di aggiungere particelle all'interno del vetro, scurendolo di fatto. Ebbene, era Sergio Brovelli dell'Università Bicocca. Ci fermiamo solo per il traffico e poi continuiamo a parlare del futuro del fotovoltaico. Roma-Napoli, in auto con un'amica. Io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla digital radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in digital radio. Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Bentornati a questo speciale Smart City di fine anno. Maurizio Melis al microfono. Stiamo parlando del futuro del fotovoltaico e dopo aver parlato di fotovoltaico organico, di fotovoltaico trasparente, parliamo di fotovoltaico a film sottile, una definizione che insomma si spiega da sola. I principali vantaggi del fotovoltaico a film sottile sono due. In primo luogo il fatto che per essere realizzato richiede pochissimo materiale semiconduttore, che è anche la parte più pregiata e costosa. In secondo luogo, un altro vantaggio è la flessibilità. Celle di questo genere, infatti, potrebbero avere qualunque forma e adattarsi ad ogni tipo di supporto. Film sottili possono essere realizzati in silicio, naturalmente, ma anche con altri materiali, come per esempio il telluro di cadmio o altre leghe più complesse, come quelle che vanno sotto il nome di CIGS, composte da rame, indio, gallio e selenio. E proprio su queste ultime, queste leghe CIGS, diciamo così, si sono concentrati i ricercatori di Metoda SPA, un'azienda diciamo che opera nel settore dell'innovazione in collaborazione con il consorzio IPAZIA e centri di ricerca tra cui il CNR, IMEM e i laboratori di Frascati dell'INFN. Tutto questo per sviluppare una nuova tecnologia chiamata PED, Pulsed Electrode Deposition, quindi deposizione elettronica pulsata, diciamo così, che permette di produrre celle CIGS a basso costo. Ci spiega tutto il direttore tecnico di questo progetto CIGS Thin Film di Metoda, Guido Libertini. Buonasera. Buonasera. Allora Libertini, come funziona questa tecnologia? Ci descriva un po' il processo. Il processo parte da un lingotto di questo materiale CIGS che viene bombardato attraverso quattro cannoni elettronici, viene bombardato da un flusso di elettroni e il materiale del lingotto quindi è soggetto a una temperatura locale molto elevata e che genera un plasma del materiale CIGS. Questo plasma poi si deposita su un substrato che è il fondo della cella e quindi crea la cella fotovoltaica. Ok, quindi sostanzialmente usate questi diciamo quattro cannoni elettronici che poi è più o meno la stessa tecnologia che c'era una volta nei tubi catodici dei televisori, più o meno. Sì. Sparate. Per analogia. Ecco, sparate su questo lingotto questi raggi elettronici che fanno sublimare, evaporare, in realtà si forma appunto un plasma. Questo plasma è una sorta, chiamiamolo di vapore per semplificare, e questo vapore si deposita poi sulle superfici che volete e che formano la cella vera e propria. Più o meno è così. Esatto. Sì, sì. I vantaggi di questa tecnologia riguardano essenzialmente l'utilizzo di poco materiale e soprattutto... Qual è lo spessore di questo film, ricordiamolo? È di qualche micron. Ok, di qualche millesimo di millimetro. Ecco, quindi c'è un grande risparmio di materiale a cui corrisponde un grande risparmio economico. Questo dovrebbe essere un po', dunque, no? Uno degli obiettivi. I vantaggi sono economico perché questi materiali sono ovviamente costosi, quindi... Ma inoltre abbiamo anche un vantaggio dal punto di vista della gestione ambientale, perché sono materiali che con tecniche tradizionali si disperdono per una percentuale molto alta, mentre in questo caso noi riusciamo a utilizzarli quasi al 100%. Ecco, queste leghe diciamo disperse nell'ambiente non sono una bella cosa. No, non sono una bella D'accordo. Cosa. Allora, senta, a che punto siete del vostro progetto? Perché voi avete una tecnologia più o meno pronta per l'uso, mi pare di capire. Qual è il prossimo obiettivo? Che cosa vi serve? Noi abbiamo fatto insieme con il consorzio IPAZIA quello che si chiama trasferimento tecnologico, cioè abbiamo preso un processo che valeva solo in laboratorio, abbiamo realizzato una macchina che dal punto di vista industriale è in grado di produrre queste celle. Tra l'altro abbiamo fatto una macchina che è funzionante, ha tutti gli automatismi per poter funzionare, come si dice in gergo, un manned, cioè senza nessun presidio, ed è modulare perché può essere stesa sia verticalmente che orizzontalmente in tanti moduli tutti uguali e quindi realizzare anche delle produzioni di di massa. Di grandi, ecco, il costo di produzione di questo tipo di fotovoltaico, secondo le vostre affermazioni, diciamo, è di circa mezzo euro a watt, quindi qualcosa che sarebbe più competitivo del silicio. Allora, siamo intorno ai 30 centesimi per watt, siamo più bassi dello 0,50, mano a mano che va avanti. Ok, del processo. Ecco, quindi comunque parliamo di una tecnologia che se la può giocare con il silicio prodotto, sì, in Cina, giusto? E allora voi state, sì, cercando qualche partner, qualcuno vi ha risposto? Noi abbiamo fatto una prima indagine sia in Italia che in Europa. Finora abbiamo avuto risposte con manifestazioni di interesse in Germania e in Svizzera. Libertini, grazie ancora. Grazie a lei, arrivederci. Insomma, come abbiamo visto, la speranza di nuovi dispositivi più economici e più flessibili dell'attuale fotovoltaico al silicio passa anche dall'introduzione di nuovi materiali. E fra tutti, quello che oggi crea più aspettative ha il nome di perovskite. Le perovskiti sono una famiglia di composti chimici tra cui si annoverano molti minerali presenti in natura. Ci dice qualcosa di più di questi composti il professor Aldo Di Carlo del Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell'Università di Tor Vergata, che ho intervistato qualche tempo fa. Sentite. In realtà perovskite è un nome generico che rappresenta un po' tutta una serie di materiali con una struttura cristallina ben precisa. In particolare per quanto riguarda appunto il fotovoltaico, si parla di perovskite ibrida, organica e inorganica, e sono, diciamo, strutture cristalline abbastanza complesse che sono state investigate già nel passato. IBM negli anni 90 ha cercato di costruire dei dispositivi elettronici, sì, con queste, okay, con perché è un semiconduttore, tanto per cominciare, come il silicio, no? Sì, è un semiconduttore come il silicio, e a differenza però del silicio ha delle proprietà ottiche, optoelettroniche, diciamo, molto interessanti, molto migliori, sì, esattamente. Ecco, ma che rocce sono? Sono delle rocce, no? È un materiale minerale. La perovskite, diciamo, quella originale da cui prende il nome appunto questa classe di composti cristallini, è un minerale, esattamente. Questa che noi realizziamo, che viene realizzato, certo, per il fotovoltaico, è un composto artificiale, certo, che viene realizzato attraverso dei passi ad hoc, naturalmente. Molto semplici, peraltro. Ecco, ma perché questi materiali perovskiti sono preferibili al silicio? Sì, proprio perché hanno sia delle proprietà ottiche notevoli, ma anche hanno la capacità di trasportare la carica. Sono dei materiali che possono essere deposti sotto forma di soluzione, per cui sono degli inchiostri alla fine, ma hanno, caspita, anche allo stesso tempo delle proprietà elettroniche e ottoelettroniche notevoli. In pochi anni queste celle hanno raggiunto efficienze paragonabili a quelle del silicio, suscitando grande interesse da parte della comunità scientifica. D'altra parte, queste celle sono anche molto instabili e degradano assai rapidamente se esposte agli agenti atmosferici. Ovviamente riuscire ad evitarlo è cruciale per trasformare questo fotovoltaico alla perovskite da oggetto di laboratorio a realtà industriale. Ebbene, un passo avanti molto importante in questa direzione è arrivato da uno studio condotto dal Politecnico di Torino in collaborazione con partner quali il Politecnico di Losanna, il Politecnico di Milano e l'Istituto Italiano di Tecnologia. Questo studio, pubblicato sulla rivista Science, tra le più prestigiose del mondo, propone un rivestimento capace di mitigare i problemi di queste celle solari e sembra proprio aprire le porte alla loro produzione industriale. Ne ho parlato con Federico Bella, ricercatore del DISAT, Dipartimento Scienze Applicate e Tecnologia del Politecnico di Torino, al quale ho chiesto, come prima cosa, quali sono i nemici naturali delle celle fotovoltaiche alla perovskite. Sì, allora, queste celle fotovoltaiche di nuovissima generazione hanno due grandi limiti. Il primo limite è che non sono tolleranti all'umidità e all'acqua, quindi è un problema se uno vuole esporla ad esempio sui tetti o nelle finestre. Il secondo limite è che si degradano quando la componente ultravioletta dei raggi solari incide sulla cella solare. Questo non va bene, di nuovo, per un discorso di applicazione su scala reale. Ecco, circa il 5% della radiazione solare è fatta da questi raggi ultravioletti che distruggono rapidamente la cella. Quanto dura una cella alla perovskite così lasciata liberamente esposta a questi elementi? Dura pochissimi giorni, siamo tra i 4 e i 5 giorni. Perfetto. E poi è completamente distrutta. Ecco, come avete fatto a risolvere questo problema? Vediamo la soluzione.